Buon pomeriggio a tutti e a tutte, 14, 2 minuti primi. Giovedì 28 maggio del 2009, 87.900, la modulazione di frequenza, siete su Radio Onda Rossa. E questo è Visionari, il consueto appuntamento settimanale, ossia ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Oh, le informazioni potete trovarle sul sito ondarossa.info, dove c'è il link per esempio per riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana e poi le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in sala, già in programmazione, e poi il link per dare un'occhiata a interviste, conferenze stampa, recensioni, oltre che la programmazione dei film su piccolo schermo per quanto riguarda la settimana televisiva. Oggi tanti gli ospiti. Diamo inizio allora ad una serie di telefonate. Un attimo, rimanete con noi. Telefono Claudio Cipelletti, regista del documentario Due volte genitori, che sarà proiettato oggi 28 maggio, questa sera al cinema, al nuovo cinema Aquila qui a Roma. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Come va? Sono appena arrivato a Roma e sotto un cielo un po' minaccioso, speriamo che questo non guasti la serata. So, arrivato a Roma anche perché sarai presente alla proiezione, quindi... Sì, certamente sarò presente alla proiezione, anche perché alle due proiezioni, che sono le 8:30 e le 10:30, sì. Anche perché ci teniamo moltissimo, io insieme ai genitori di Agedo, a essere presenti col pubblico. Agedo è l'associazione amici, parenti, genitori di omosessuali. E questa è quindi una serata un po' speciale per Roma, perché c'è abbastanza attesa nel mondo LGBT, però credo che questo sia veramente un film da condividere con tutti. Allora, per chi ci ascolta, parliamo un po' dell'oggetto in questione, sia del film, del documentario. Raccontaci di un po' di cosa parla. Guarda, è un documentario lungometraggio che parte dal momento in cui un genitore, un papà o una mamma, viene a sapere che suo figlio o sua figlia è gay o lesbica. Sì. E questo provoca ancora oggi, e soprattutto in Italia, perché ci guardano con un po' di stupore dall'estero, una serie di reazioni che sono molto preoccupanti. All'inizio questi genitori sono davvero smarriti e fanno un lungo percorso che il film racconta, percorso devo dire estremamente limpido, illuminante, che è un po' il percorso di tutti i genitori, cioè un percorso che parte dal riconoscimento che il figlio è diverso dalle proprie aspettative. Questo succede un po' a tutti i genitori, infatti sì. Per questo dico che il film vale un po' per tutti, però scopre anche il mondo del pregiudizio intorno all'omosessualità, che in Italia pesa tantissimo, per cui anche chi si sente aperto di idee, poi quando la cosa si verifica in casa, ahimè, no, non è più aperto di idee, cioè la cosa è lecita ma fuori dalla famiglia. Mm-hmm. Quindi è la prima volta che si fa un'indagine molto approfondita di quello che succede all'interno della famiglia. Senti Claudio, come l'hai... Scusa, t'ho interrotto. E come l'hai strutturato? Prevede una serie di interviste, immagino. Guarda, io in realtà ho evitato le interviste frontali, cioè è un film molto parlato chiaramente, perché sono storie, narrazioni. Quindi fuori campo? No, ho fatto in modo che queste persone si raccontassero tra loro e ho rubato, diciamo, questi racconti, e l'ho fatto in gruppi di genitori e l'ho fatto all'interno di famiglie. Però questo ha richiesto una preparazione lunghissima di più di un anno con una psicologa, un formatore, per trovare il modo di creare le situazioni protette in cui noi potessimo riprendere senza poi essere, diciamo, di intralcio al normale svolgimento di momenti anche molto intimi, come quello di un'intera giornata di dibattito in casa tra genitori e figli intorno al tavolo del loro tinello. Quindi diciamo che ho fatto un lavoro molto accurato di preparazione per trovarmi le condizioni di offrirgli un ambiente protetto in cui raccontarsi, ma senza porgli delle domande dirette, cercando di ricostruire il viaggio, il percorso interiore che hanno fatto. E quindi il film è davvero strutturato come un viaggio, tra l'altro è anche un viaggio attraverso l'Italia in treno, perché c'è una candid camera girata in treno con degli esiti che possono essere tra l'esilarante e il tragico, se vogliamo vederli da due punti di vista diversi, in cui una mamma ripresa all'insaputa delle persone dello scompartimento svela di avere un figlio gay e le reazioni sono tutte da vedere. Senti, questo viaggio come ha preso spunto? Scusami? Questo viaggio che hai fatto, come ha preso spunto l'idea del documentario? Io ti sento un pochino, però penso che parlando del viaggio ha preso spunto dalla realtà, perché questa mamma, che attualmente è la presidente dell'associazione di genitori, è molto charliera e mi ha sempre raccontato dell'effetto che fanno i suoi dibattiti pubblici in treno, perché lei molto facilmente attacca il bottone, quindi mi è sembrato un modo per creare un fil rouge attraverso le storie delle varie famiglie che andiamo a conoscere in giro per la penisola. E poi il film è nato in seno a un progetto europeo che si chiama Family Matters, quindi è stato finanziato dalla Commissione Europea. È un progetto sociologico di indagine sulle famiglie italiane, su come vivono questo aspetto. Però il film, che pure ha questo grosso fondamento scientifico dietro, in realtà è una storia. C'è chi l'ha definito un film d'amore, in pratica è la storia d'amore del recupero del rapporto con dei figli che all'inizio sembravano quasi persi, come se fossero morti dopo questa rivelazione. Ho capito. Senti Claudio, esiste anche un sito internet legato al film? Sì. Abbiamo fatto il sito del film, che ha lo stesso titolo del film, cioè www.duevoltegenitori.com, tutto in lettere. Due volte genitori è il titolo del film perché questi genitori si sentono come se avessero rimesso al mondo i loro figli dopo questa scoperta, ed è una crescita importante per loro come genitori e per la loro visibilità anche come genitori di figli gay, cioè si mettono in gioco loro stessi, per cui da qui il titolo. Bene Claudio, allora il trailer. Ah, bene. Senti, ricordiamo allora gli appuntamenti, il doppio appuntamento di questa sera al Nuovo Cinema Aquila. Vai. Alle 8:30 e alle 10:30, due proiezioni del film. A partire dalla fine della prima proiezione in poi verrà offerto un rinfresco agli spettatori, che così potranno avere modo di chiacchierare, di confrontarsi con noi, con i genitori che saranno presenti e con me. Molto bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. E grazie mille. Ciao Claudio. Presto, ciao. Claudio Cipelletti, regista del documentario Due volte genitori. problemi con la linea per i nostri collegamenti. Quindi abbiamo seri problemi con la linea. Intanto vi ricordo che questa è Visionari, consueto appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.900 e modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Potete ascoltarci in streaming dal sito ondarossa.info cliccando su in diretta. Oppure potete inviarci mail a visionari@ondarossa.info. Numero di fax 0644 636 16. Sul sito troverete anche il link della puntata precedente, poi gli ospiti di questa settimana e una serie di altre informazioni relative non solo alla puntata odierna. Allora proviamo nuovamente a vedere cos'ha il telefono. A Massimiliano Mazzotta, ci sei caro? Ci sono. Buongiorno. Regista del documentario Oil che è tornato drammaticamente attuale, insomma, visto che insomma quello che è successo in Sardegna, la Saras. Sì, noi intanto siamo, come tu puoi ben capire, siamo molto vicini, diciamo, in questo momento ai familiari, diciamo, delle tre vittime. E quindi per me è stato veramente uno shock sotto il punto di vista emotivo. In questo momento mi sento meno, come dire, regista e più anche, certo, un, un discorso proprio a livello etico, personale, come essere umano. Allora, per chi è all'ascolto, diciamo due parole chiaramente sul documentario e perché questo collegamento. Secondo me non può esistere, cioè non c'è un collegamento con il film. Diciamo che io nel documentario, come si può vedere anche nel trailer che è online ormai da mese, tu lo sai, come soprattutto diciamo le persone che l'hanno visto precedentemente, si parla del problema di sicurezza, perché a quanto pare ci sono dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B. Sì. Quindi il lavoratore di serie A, in questo caso il dipendente Saras o il dipendente della Polimeri, delle grosse aziende, è tutelato sotto tutti gli aspetti, quindi entra diciamo nello stabilimento vestito in borghese, diciamo senza la tuta, e riesce senza la tuta. Quello della ditta esterna non solo magari ha un contratto che dura 3 mesi, non so come dire, 3 mesi di contratto, e poi un ragazzo te lo dimentichi per un anno, lavorano in condizioni, come si dice anche nel film, in condizioni diciamo di sicurezza, perché quando ci sono le fermate ci sono tante persone che lavorano allo stabilimento, quindi hai gente che ti gira sopra, sotto, davanti, dietro, quindi è il momento in cui bisognerebbe fare più attenzione. Sì. E poi anche dove si fanno le visite dei dipendenti della SARS o della Polimeri hanno l'ospedaletto, sono tutelati, come si vede anche nel film. Lì si fanno delle visite in una roulotte a fianco a una fabbrica dove stava lavorando il ferro, quindi fare una visita dell'udito lì mi sembra un po' improbabile, anche per una persona di 60 anni che ci certo. lavora magari 5 mesi e poi deve aspettare altri 5 per essere, diciamo, per avere un altro contratto. Massimiliano, oltre alla tragedia legata alla morte dei tre operai, qualche giorno fa mi era arrivata anche la tua mail relativamente a un problema di censura legato al documentario. Sì, diciamo che settimana scorsa, diciamo il 15, 16 e 17, dovevamo fare 3 proiezioni, la prima all'Università di Cagliari, che è stata censurata perché la Saras a quanto pare aveva mandato una lettera all'ERSU, l'ente regionale per il diritto allo studio, dicendo che il film era sotto sequestro, cosa che non è vero, perché non è sotto sequestro, hanno semplicemente chiesto le copie di restituzione dei 4 DVD che mi avevano concesso loro più una copia del film, e quindi hanno censurato. Però stamattina, proprio te lo posso dire adesso in diretta, è arrivato un'ora e mezzo fa, il presidente dell'ERSU ha revocato questa censura e vuole adesso rimandare il film in università. Adesso decideremo poi prossimamente quando lo faremo all'Università di Cagliari. Almeno questo. Senti, magari ne riparleremo quando sarà il momento, quando verrà riproiettato, faremo nuovamente un collegamento, così insomma diamo più risalto a questa. Sì, certo, anche perché con noi c'era anche il professor Antonio Caronia, che ha seguito come il film da sempre, e che, sai, censurare il film a un professore di un'accademia è come, non so, Antonio voleva prendere un megafono fuori dall'università e fare una, ci è stato negato anche quello, non so come dire, anche il veto di parlare, perché la proiezione poi del 17 maggio, che è stata al Teatro Civico di Castello, hanno proiettato il film, ma c'è stato il veto sia per me che per Antonio di parlare e addirittura anche di comparire. Senti, allora ricordiamo OIL, il tuo documentario, anche i riferimenti internet, così per chi vuole saperne OIL, oilfilm.it, all'interno si possono trovare dei trailer, tutte le informazioni relative a quello che è, diciamo, un impianto petrolchimico e quali sono anche magari delle nuove fonti alternative, perché ovviamente di fronte a quell'impianto si fa anche energia elettrica oltre a produrre, diciamo, raffinare petrolio. Bene. Massimiliano, allora noi ci sentiremo per prossimi sviluppi della situazione, anche per nuove iniziative che metterà in piedi per proiettare il film, va bene? Va bene, ok. Un abbraccio, in bocca al lupo. Un abbraccio, grazie. Ciao. Crepi, grazie. Massimiliano Mazzotta, regista del documentario OIL. We'll be right back. ascoltatori, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi, come state? Tutto bene? Tutto sì? Bene, tutto bene. Sono contenta. A parte un collegamento che dovevo fare per parlare di un documentario, Domani torno a casa, di Emergency, con Paolo Santolini, ma ho evidentemente ho preso il numero sbagliato. Perché e no. Dunque non sei riuscita. Non so. Vabbè, però ci sarà un altro, come dire, un altro momento, mi auguro, insomma. Beh, sì, magari lo recuperiamo, perché la proiezione sarà domani al Sager. Lo so, c'è stata tutta quella diatriba, non si è capito bene. Sul nuovo Cinemaquila, sì, ho seguito, ma non benissimo, mi sembrava che fosse una sorta di pasticcio, ma non ho capito di che genere, però, quindi non so dirti, insomma. Senti, allora, con te, per parlare invece della rassegna al Cineclub Alphaville, Jelus Salut God. Esatto, Federico, esatto. Come tu sai, questo è l'anno, sono 50 anni della Nouvelle Vague, e quindi noi in tutte le salse, in tutti i modi, ad Alphaville stiamo cercando di ricordarla. Uno dei grandi padri fondatori della Nouvelle Vague è Jean-Luc Godard, e quindi abbiamo pensato, visto che non potevamo dedicargli veramente una selezione, una monografica completa, di realizzare una selezione a quello che insomma è stato definito davvero, insieme con Rivette, Romain, Truffaut e René, eccetera eccetera, il padre proprio fondatore, quello che per primo insieme con Chabrol anche ha dato vita a questo nuovo corso del cinema francese, e poi secondo me lui gli ha dato vita veramente in maniera molto, come dire, personale, ma anche molto suggestiva. E proprio ieri, riguardando i primi suoi film, mi è sembrato nemmeno così tanto datato come parecchia critica insomma nel corso degli anni ha sempre detto. Tu sai, no, Federico, che sì, c'è una diciamo una sorta di come dire di differenza coppi bastali con Truffaut, no? Cioè i godardiani e i truffoniani, no? Sì. E tutti a dire no, ma Truffaut resiste al tempo, resiste di più al tempo rispetto a Godard, che sembrava così sperimentatore ed innovativo negli anni 60, all'inizio del nuovo corso del cinema francese. Ma ieri noi abbiamo guardato nuovamente Fino all'ultimo respiro, che mi sembra davvero un capolavoro, e anche Vive fa vive di che c'è, cioè, insomma sempre suo di pochi anni dopo, di due anni dopo, e mi sembra che comunque ancora c'è una certa freschezza e anche la voglia di rivoluzionare i canoni cinematografici. Questo mi fa piacere, insomma. Allora, la rassegna dal 27 al 31 maggio, dici più o meno che panorama abbraccia? Vi dico che diciamo, noi abbiamo iniziato con il primo film, che è Fino all'ultimo respiro, ed abbiamo diciamo selezionato una serie di lungometraggi, anche cortometraggio, episodi di film fino ai primi anni 80, 83-84, l'ultimo film è Salut Marie, appunto. E vi consiglierei di venire a vedere, se non l'avete mai visto, Alphaville, Agente Lemmy-Cascio, Missione Alphaville, perché il film Alphaville si chiama così in onore di Godard, perché è un film fintamente fantascientifico, ma in realtà molto puntuale e critico insomma su certa società contemporanea, che era quella del 65, ma che può essere anche adesso, no? Mm-hmm. E, no, stasera per esempio prima di Alphaville c'è Il disprezzo, film incredibilissimo, veramente non si può dire incredibilissimo, ma lo dico proprio come se fossi Godard, perché è un film in cui appunto l'Italia ha distrutto molto del parlato che in sede appunto di montaggio c'era, e quindi noi lo riproponiamo invece con un montaggio più possibile, in una versione restaurata, per cui dovrebbe essere anche più agevole insomma seguire questo film tratto da questo romanzo di Alberto Moravia, che è Il disprezzo. Sì. Poi a poco si va verso naturalmente una selezione che ne presente anche appunto l'episodio di Rogoback, Il bandito delle 11, il famoso Pierrot Le Fou, che noi diamo in versione originale perché non riusciamo a trovarne nemmeno una con i sottotitoli in Italia, e questo mi sembra piuttosto grave, però è così, se chi lo vuole vedere lo vedrà insieme con me in versione originale, e via via insomma fino a domenica. Sono tutte una selezione di film che davvero cercano in qualche modo di abbracciare diciamo alcune delle tappe fondamentali di questo regista, che amava il cinema ma paradossalmente odiava le regole del cinema, e dunque tra questi due come dire, questi due moti dell'anima alla fine faceva prevalere attrazio dall'uno dall'altro, e quindi sembrava veramente, come dire, il regista del paradosso. Ma secondo me insomma invece è stato molto importante, ed è molto importante nella storia del cinema, perché in effetti grazie al suo sovvertire le regole abbiamo avuto un linguaggio nuovo. Da allora in poi c'è stato un linguaggio nuovo e la possibilità di di usare nella semantica del linguaggio cinematografico, insomma, non mi pare di poco conto. Sì, sì. Senti, è prevista la semplice proiezione o anche poi momenti di discussione? No, no, è possibile anche parlare, tanto ad Alphaville è sempre così, Federico, come voi sapete, penso. Cioè non è possibile non discutere, perché non è come il famoso film Sono autarchico, un autarchico, no, no, il dibattito no, no, ad Alphaville appena si finisce il film si parla, si dice, si fanno raffronti con altri registi, con altri autori, si dice no, a me non è piaciuto, no, a me sì, poi ci si scontra pure con vari temi e con varie, diciamo, possibilità di visione. No, no, come no, è tutto previsto, ad Alphaville è tutto previsto, insomma, no, no, questo senz'altro. Anzi, è previsto anche, insomma, di cercare di analizzare questo regista alla luce anche degli altri che noi abbiamo proposto già, François Truffaut, Bresson, eccetera, nel corso di questi primi sei mesi di attività di Alphaville, e ce ne sarà anche per dopo, perché tra l'altro noi pensiamo di far vedere molta Nouvelle Vague anche adesso che inizierà la Miniarena Pigneto, come sai, se le dico, no? Bene, dal 1 bene. Luglio al 23 agosto, e lì ci sarà una settimana proprio Nouvelle Vague al 2000 per 1000, e tutti ricorderemo André Bazin, il fondatore Franzù e Langlois e la Cinémathèque Française e quant'altro. Insomma, noi quest'anno veramente con la Nouvelle Vague è proprio pancia mia satti capanna, come si direbbe. Senti, allora il programma chiaramente è sul sito del Cineclub Alphaville. Sì, naturalmente, okay. Sì, vi ricordo che ci sono ogni sera due proiezioni, sì. Quindi ce n'è una che inizia intorno alle 21:15 e normalmente la prima proiezione dura circa 90 minuti e a seguire c'è la seconda proiezione con una pausa di 10 minuti, quindi chi vuole assistere alla seconda proiezione non venga più tardi, insomma, alle 10:30, 11:20. Va bene, allora un abbraccio e a presto. Grazie Federico, grazie a voi tutti della radio e a presto vederci. Ciao Patrizia, ciao, ciao, ciao, ciao. Patrizia Salvatori, presidente del Cineclub Alphaville al Pigneto. Con Francesco Cinquemani, direttore del primo Ostia Film Festival. Pronto, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui virtualmente. Allora, raccontaci tutto, visto che si tratta di una prima edizione, allora vorrei sapere come nasce, chiaramente. Allora, nasce da due passioni che si incontrano sul mare. Perché io sono il direttore artista e sono Francesco Cinquemani, poi c'è un direttore organizzativo che si chiama Luca Alianza e siamo amici da tantissimi anni. Sì. Io opero nel cinema da tanto tempo, come giornalista cinematografico, anche direttore, cioè dirigo pure riviste di cinema. E Luca invece è un grande marinaio, un comandante di navi, che ha una società con cui fa charter di yacht, anche una bellissima barca a vela. Ci siamo veramente incontrati letteralmente l'anno scorso, perché lui aveva portato su una delle barche che gestisce, e avevamo detto: perché per gioco non facciamo un festivalino così su questo prato vicino alla barca, proiettiamo sulla vela dei cortometraggi realizzati da amici. E da lì è iniziato a crescere e siamo arrivati qua, insomma è diventato più grande come cosa, quindi siamo molto soddisfatti. E poi avevamo l'obiettivo di riportare la cultura sul non che noi ci siamo questo grande baluardo culturale, però per dire, nelle manifestazioni culturali ad Ostia, che erano attive fino a pochi anni fa, come il premio, parlo di il premio il premio della poesia, c'era un festival internazionale di poesia che era bellissimo, c'era tutta una serie di attività culturali sul litorale che adesso non si fanno più. Oh, come ha preso forma poi, visto la trasformazione che ha subito il festival, come il programma cosa comprende? Allora, il programma comprende, intanto tutte le proiezioni sono gratuite, le facciamo al Cineland di Ostia, iniziando dal 3 al 7 di giugno, tutti i film. Quindi tutti possono arrivare fino a esaurimento posti. Questa è stata una delle prime idee che abbiamo avuto, perché per noi deve essere un festival, deve essere aperto alla gente. Certo, buona idea, insomma, la gratuità della cultura, certo. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo una sezione molto potente di documentari e una bella sezione di anteprime, diciamo. Più ci sono altre sezioni che sono una sezione di mostra d'arte, cioè che viene fatta alla Biblioteca Samorante, abbiamo una mostra che inaugurerà il 4, il 4 alle 18 alla El Samorante, con degli artisti anche importanti come Mario Consiglio e altri, quindi anche che siamo soddisfatti pure degli artisti che siamo riusciti a coinvolgere, e tutti stanno partecipando gratis, è tutto volontariato, e questa è una cosa da dire, da ribadire. Abbiamo un po' e poi abbiamo le anteprime che sono abbastanza importanti, e poi Ultravisione, che è una sezione più sperimentale. Se vuoi qualche informazione sulle sezioni con i titoli in generale o qualcosa? No, per esempio, ecco, se è prevista anche la presenza di ospiti, degli autori dei film, se ci sono momenti di incontro, se ci insomma. Sì, ci sono. Praticamente tutti i registi dei film italiani, dei documentari, dei lungometraggi sono presenti e con buona parte del cast. Partiamo da Mario Monicelli, gli diamo un premio alla carriera e proiettiamo un documentario in cui lui racconta la sua vita, non è diretto da lui ma è diretto da due ragazze, e andiamo a finire ai giovani esordienti, passando in mezzo per Alessandro Haber, Valeria Solarino tanti ospiti ogni giorno, e faremo un tipo di, dato che è un festival che nasce con la partecipazione della gente, gli incontri stampa e pubblico verranno fatti con le presentazioni in sala con il regista che presenta il film, e dopo si può anche parlare un po' del film con il pubblico. Bene, allora, prima edizione Ostia Film Fest, dal 3 al 7 giugno, ingresso gratuito, il luogo hai detto... Pronto? Cineland, ti sento. Cineland di Ostia. È tutto lì al Cineland. E poi abbiamo la struttura, sono quattro: Porto di Ostia, dove c'è una barca, ecco, che portiamo, una barca, e quindi parte neppure il Porto di Ostia, c'è della disponibilità, una barca che siamo riusciti a portare, che potrà essere visitata, che è uno yacht del 1939, complementi in legno, bellissima, dove faremo anche degli incontri stampa. Poi abbiamo come partner il Village, che è uno stabilimento, dove lì faremo le interviste con i giornalisti, e insomma tutti gli ospiti del festival passeranno lì, quindi il pubblico li può anche vedere, e la biblioteca è Ol Samorante, che è sul mare. Molto dove bene. C'è la mostra. Ok. Perfetto. E per sapere di più, dove su internet dove si può controllare? C'è tutto sul nostro sito ufficiale, che è www.ostiafilmfest.com. Molto bene, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie infinite, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. Era Francesco Cinquemani, direttore della prima edizione dell'Ostia Film Fest dal 3 al 7 giugno. E ben ritrovato a Fabrizio Grosoli, direttore del Bellaria Film Festival, 27esima edizione di Anteprima Doc a Bellaria Egea Marina, dal 2 al 6 giugno. Eccoci qui. Esatto, ciao, grazie, saluti a tutti. Tutto bene? Tutto a posto, sì. Tutto bene. Allora, questa edizione, cosa ci aspetta per questa edizione? Ma guarda, come sempre l'edizione è molto ricca e molto piena di cose. Sì. Come sapete, il centro del festival è il cinema documentario italiano, nel senso che i concorsi sono dedicati appunto ai film documentari sia inediti, e questo è il concorso Anteprima Doc, sia quelli che sono stati selezionati, preselezionati da un'ampia commissione, diciamo così, per eleggere il miglior documentario italiano attraverso il premio Casa Rossa. Sì. Poi però ci sono molti altri omaggi, eventi anche di carattere internazionale, e se vuoi te ne segnalo almeno un paio. Come no, certo. Ma dunque, come ogni anno, a partire dagli ultimi anni, noi celebriamo un maestro del cinema documentario musicale, è stato il caso di Don Pennebaker e l'anno scorso di Peter Whitehead. Quest'anno ci siamo rivolti doverosamente a Julian Temple, che in qualche modo è effettivamente colui che ha inventato il linguaggio dei videoclip a partire dagli anni Ottanta, insomma, che ha lavorato con tutti i grandi maestri del rock, dagli Stones a David Bowie e così via, e che ha fatto poi anche molti documentari straordinari, soprattutto seguendo la storia dei Sex Pistols e del punk per 30 anni. Sì. E, Julian porterà in anteprima assoluta un film che si chiama Liberty of Norton Folgate, fatto con i Madness, che è una cosa veramente curiosa, non è un semplice concerto, e poi sarà presente Bellaria, farà un workshop organizzato insieme ad O'Keefe. E poi l'altra cosa che tengo a segnalare in qualche modo è invece questa selezione di nuovi film di giovani autori cubani. Sono 50 anni dalla rivoluzione di Castro, ci abbiamo un attimo pensato a come ricordare questo evento, e alla fine ho pensato che forse la cosa migliore era proprio vedere appunto se esisteva una produzione giovane e indipendente, cosa non scontata. Mi sono accorto che questa produzione c'è, che negli ultimi anni appunto ci sono dei giovani che cominciano a lavorare in modo totalmente indipendente, sì, cosa che non era stata negli anni precedenti, e ho portato una ventina di film, corti e medi, che sono secondo me una vera e propria rivelazione, e soprattutto vanno contro qualsiasi luogo comune sulla storia, la società, la cultura dell'isola, affrontano temi molto forti e molto controversi per Cuba in modo totalmente libero, insomma, credo che sia una scoperta, uno dei motivi senz'altro per venire a Bellaria. Molto interessante. Senti Fabrizio, la provenienza di questi lavori in generale, e poi se ci sono alcuni temi più presenti rispetto ad altri. Ma guarda, la selezione del concorso quest'anno è fatta da 11 titoli. Devo dire subito una cosa, che c'è una presenza femminile molto forte. Sì. Sono autori, come potete immaginare, per la maggior parte giovani o giovanissimi, e mi sembra che ci sia una media molto elevata. Se devo citare un titolo, perché mi sembra particolarmente curioso, citerei il film di una giovanissima, perché ha 19 anni, regista rom, che si chiama Laura Lidovic, e che ha fatto un film appunto per raccontare in qualche modo, ma devo dire anche con molta leggerezza e con molta autoironia, il mondo appunto della comunità rom in Italia, sia attraverso l'esperienza sua, che è, diciamo così, lei fa parte di una famiglia inurbata, no? Che vive in un appartamento a Torino, ma anche il mondo di chi continua a vivere da nomade e tutti i suoi parenti nelle roulotte e così via. E devo dire che mi sembra un contributo non di poco conto per, come dire, no? Eliminare luoghi comuni, sì, ritorni di razzismi e cose di questo tipo. Sì, sì, sì, sì. Senti Fabrizio, c'è il sito del festival chiaramente come riferimento. Sì, sì, sì, sì, Bellaria Film, cioè, sì, bellariafilmfestival.org, e troverete anche attraverso altri siti informazioni, ad esempio con Filmmakers TV abbiamo fatto un accordo per cui ad esempio c'è una sorta di conferenza stampa video consultabile, insomma sì, ci sono molti materiali, però spero di vedervi a Bellaria anche in prima persona, anche fisicamente. Bene, bene, un piacere. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Bellaria Egea Marina, 27esima edizione di Anteprima Doc, il Bellaria Film Festival, dal 2 al 6 giugno. In bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, ciao. Co-direttore della quarta edizione del Roma 3 Film Festival dal 3 al 5 giugno, ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. È quinta edizione, ti correggo subito. Ah, bene, bene, bene, ero rimasto indietro. Allora, di cosa si tratta? Raccontaci. Beh, no, niente, allora il nostro è un piccolo festival, nasce come iniziativa d'Ateneo 5 anni fa e da quella che era una volta, ovvero una kermesse di corti universitari, giovani autori, filmmaker del DAMS che volevano far vedere i propri lavori, dall'anno scorso in particolare si è ampliata e adesso ci siamo concentrati soprattutto sul giovane cinema, sul cinema indipendente di filmmaker preferibilmente sotto i 40 anni, ma anche insomma il cinema che gravita intorno al circuito universitario, proprio perché crediamo che l'università possa funzionare anche da catalizzatore, da divulgatore di opere del cinema contemporaneo che meno si vede. Sì. E, ad esempio parliamo quindi di opere di ex studenti, ma anche di giovani docenti o docenti anche di altre accademie di cinema. Ad esempio in particolare quest'anno ci siamo concentrati sul documentario e ti posso fare l'esempio di Mario Balsamo e Gianfranco Pannone, che i cui lavori abbiamo presentati, quello di Balsamo l'abbiamo presentato ieri, Sogniamo le nuvole colorate, e quello di Pannone lo presentiamo stasera, Il sol dell'avvenire, e sono entrambi due docenti dell'ACT, l'Accademia Cinema e Televisione Multimedia. Sì. Allora, come l'avete strutturato questo festival? Beh, allora, il programma può sembrare un po' schizofrenico, però ecco, la linea cui volevamo dare importanza e rilevanza è soprattutto, appunto, come ti dicevo prima, il documentario. Sì. E il documentario meno visibile. Sì. In questo senso abbiamo anche stretto un legame con Malastrada Film, non so se lo conosci. È un centro di creazione e diffusione di cinema, non soltanto documentario. Uh-huh. Che però al suo interno, sul loro sito, c'è una sezione che si chiama proprio Documenti di Stato, dove si raccolgono questi documentari, e la cosa interessante è che vengono autoprodotti, scusa, autodistribuiti, autostampati e venduti sul sito. Tra questi, insomma, ci sono anche documentari famosi come Fratelli Titav, che abbiamo proiettato ieri, di Manolo Lupichini e Claudio Metallo, sull'impatto del treno ad alta velocità nel nostro paese, sì. Oppure quello che proiettiamo oggi in anteprima assoluta, o Traverse di Mico Meloni, che è invece un allievo di Alberto Grifi ed è un documentario sulla questione della nazionalizzazione degli idrocarburi in Bolivia. E il primo giorno abbiamo proiettato Uso Improprio, il documentario sull'Acrobax, il centro sociale qui di Roma e la squadra di rugby degli All Reds, sì. Quindi sono tutti lavori che in qualche modo raccontano, percorrono un viaggio nel veramente lontano, in altri luoghi, alla ricerca di altri luoghi e altre realtà, oppure un viaggio nel microcosmo qui dietro l'angolo, ma comunque un viaggio antropologico in qualche modo. Sì. E accanto a questi lavori documentari abbiamo dato anche un po' di spazio a quello che noi crediamo, al territorio da cui noi crediamo possa venire anche qualche rinnovamento nel cinema italiano, ovvero al cinema di genere, perché in qualche modo ci sembra che soprattutto negli esempi contemporanei ci sia una certa freschezza di idee proprio da questo cinema. Ti cito giusto il Metodo Orfeo, che è un thriller ambientato all'isola d'Elba, quindi dove i luoghi e i paesaggi sono fondamentali, di un giovane regista, Filippo Sozzi, di Genova, o quello che proiettiamo oggi, che è un horror di Gianni Virgataula, Lemuri, Il bacio di Lilith, che è un horror espressionista in omaggio al cinema muto tedesco degli anni 20, insomma. E ti cito, concludo magari citando la proiezione di Beckett di Davide Manuli, che è un'altra opera, è un altro autore a cui teniamo molto e che spesso stimiamo. È nostro ospite, sì. Sì, sarà ospite alle 7 qui da noi al Palladium, mm-hmm. E stimiamo proprio come esempio, emblema di un cinema indipendente, certo, coraggioso, certo, e nuovo. Certo. Senti Pierpaolo, c'è chiaramente un sito per far riferimento. Sì, allora abbiamo anche qui, essendo un festival povero, praticamente a zero budget, abbiamo il nostro blog all'indirizzo www.blogspot.roma3filmfestival. Ma il programma completo si trova anche sul sito ufficiale del Teatro Palladium, da scaricabile in PDF. In bocca al lupo allora. Ti ringrazio. Ricordiamo le date. Allora, ieri e l'altro ieri, che sono passate ovviamente, e oggi dalle 15 alle 24 non stop, ingresso gratuito al Teatro Palladium. Molto bene. Grazie Federico, ciao, ciao. A presto, ciao. E questo era Pierpaolo De Santis, co-direttore della quinta edizione del Roma 3 Film Festival. Ci sei? Oh, eccoti qua. Sono ritornata. Sei tornata. Sì, sono stata troppo assente. Troppo assente. Com'è andata a Cannes? A Cannes è andata bene, bene. Io tra l'altro ero vicina a una persona che ha fatto il collegamento, che è Federico. Sì. Una volta. Sì. Ero lì con lui, praticamente abbiamo fatto un po', come dire, insieme, no? No, è andata veramente bene, perché ha vinto un film verdissimo, importantissimo, e che secondo me passerà un po' alla storia del cinema, ma sicuramente contemporaneo, europeo, ma non solo, ecco. Sto parlando del film di Michel Haneke, no? Il Nastro Bianco, che ha vinto il Festival di Cannes, a 2 ore e mezza in bianco e nero, incredibili, un teorema filosofico però scritto come un romanzo, cioè una storia incredibile. Io sono molto contenta che abbia vinto. Anche a Federico, ecco, era piaciuto molto. Eh? Anche a Federico era piaciuto molto, insomma. È piaciuto a tutti, cioè bene, chi non è piaciuto è difficile, insomma, no? Che, insomma, non può non piacere, anche ai detrattori di Anne, che so che è piaciuto, insomma. Aspetta che intanto entro in un'area di servizio, che significa che ci sarà meno rumore di sottofondo, forse già si sentirà, no? Ah, già va molto meglio, guarda. Molto bene. Bene, allora parliamo di Cannes. Di che parliamo? Eh beh, facciamo un bilancio, dai, così brevemente. Sì. Allora, sì, io per la prima volta nella mia storia personale ho visto tutti i film che erano in concorso, e devo dire è stato un concorso di cinema buono, di alto cinema. Erano 20 titoli, poi c'erano comunque altrettanti titoli nell'Unsorted Regard, che è la sezione parallela un po' più sperimentale di scoperta di nuovi talenti, la Kenzen del realizzatore e la Semen della critica, quindi 4 sezioni. Io devo dire che quello che ho visto mi è abbastanza mediamente piaciuto. Ci sono stati alcuni picchi, appunto come Haneke, il film di Elias Lehman, molto molto bello, mm-hmm. anche se fatto un po' sulla falsariga di Intervento Divino. Poi buona la prova di Jane Campion, che è tornata a Cannes dopo tanti anni. L'ultima volta appunto fu quella in cui vinse la Palma d'Oro con Lezioni di Piano, e fu anche l'unica donna a vincere. Ha portato comunque un film assolutamente profondo e riflessivo su un momento della storia di John Keats, grandissimo poeta inglese del romanticismo. E poi buona la prova anche di Andrea Arnold, che era una regista britannica, il suo secondo lavoro dopo aver vinto con Red Road un paio di premi importanti a Cannes. Ha vinto anche questa volta il premio della giuria. Il palmarès comunque ha favorito un pochino i cineasti orientali, dell'estremo oriente soprattutto, non condivisibili almeno da parte mia i premi che sono andati appunto all'estremo oriente, perché i film secondo me erano abbastanza sottotono, però non, cioè, per carità, poi la giuria si è espressa secondo le proprie, come dire, no, i propri gusti. C'era per esempio Park Chan-wook, che ricordiamo il regista della trilogia della Vendetta, no? Old Boy, Mister Vendetta, così, che ha portato una storia molto incredibile su un vampiro, cioè un prete che diventa vampiro in seguito a una trasfusione infetta, che però secondo me non è assolutamente all'altezza del suo cinema, nonostante questo è stato premiato, ecco. Mm-hmm. Poi appunto buona la prova di Tarantino. Io sono stata una di quelle a cui è piaciuto moltissimo il film di Tarantino, è 2 ore e 40, Inglourious Basterds, l'attore, non Brad Pitt, ma Christoph Waltz, ha vinto come miglior attore. Condivisibilissima la scelta, perché era proprio il migliore in campo. Lo stesso si può dire forse della carnalissima prova della Charlotte Gainsbourg per il film di Lars von Trier, che forse tu hai già visto, no? No. Non l'hai ancora visto, ma lo vedrai? Non so se è prevista un'anteprima, ma comunque non mi è arrivata informazione. No, l'anteprima non è prevista perché è stato fatto a Cannes. E per cui non lo so. Non ed so è già se... in sala, è già in sala. No, perché è già in sala, quindi puoi vederlo tranquillamente. Ho amato molto il film di Marco Bellocchio, il nostro autore, unico nome italiano presente sulla Croisette. Convincere ha dato prova, oltre ad essere veramente in forma e fedele, insomma, al suo talento, di aver davvero colto il meglio che si potesse in questa storia vera legata alle vicende di Mussolini, cioè diciamo più alle sue vicende private. Ha fatto una grande metafora sul potere, un po' come aveva fatto Sorrentino con il Divo, ma ovviamente secondo lo stile di Bellocchio. Ho amato molto L'opera prima, che ha vinto, che era nel concorso dell'Unsorted Regard, un film aborigeno, cosa sì, appunto che non si vede normalmente per sui nostri schermi. E poi un grande ritorno di Francis Ford Coppola, devo dire, con Tetro fuori concorso, anzi no, la Kenzen del realizzatore, un film con Vincent Gallo, veramente bello. Io sono stato uno di quelli a cui è piaciuto di più. Lo stesso discorso di apprezzamento va per il film fuori concorso, l'horror, il grande ritorno all'horror di Sam Raimi, Drag Me to Hell, un horror di quelli che a Zelati piacerebbero tantissimo, piacerà tantissimo. Grande stile, proprio quell'horror classico, bello, un po' splatter ma intelligente e anche politico, fortemente politico. Quindi insomma sono tornata arricchita di varie cose e sono convinta che comunque Cannes raccolga sempre il meglio della cinematografia disponibile da vari angoli della terra. Poi è chiaro, ci possono essere i capolavori sparsi in altri festival, però devo dire che Cannes ancora mantiene il suo altissimo livello, su questo non ci sono dubbi. Vogliamo parlare di qualche film in sala? Io ho già parlato di Bellocchio, Lars von Trier magari ne parliamo prossima settimana perché è un po' impegnativo il discorso su Lars von Trier, quando l'hai visto pure te. C'è qualche film in sala che io magari pensi di cui io possa parlare? Il Canto di Paloma mi viene in mente State of Play, ma non so se... Allora, State of Play l'ho visto, un film sul giornalismo, a me è piaciuto, devo dire, un film con il grande Russell Crowe. Ogni volta che Russell Crowe è sullo schermo a me piace, insomma, che non so se sono un obiettivo. Vabbè, c'è questa... funziona abbastanza, devo dire, sì, lo consiglio. Consiglio ovviamente Il Canto di Paloma, di cui avevo già parlato abbondantemente, credo, al ritorno da Berlino, sì, essendo l'Orso d'Oro a Berlino. E sconsiglio Angeli e Demoni, che è la versione comica di Antichrist. No, sto scherzando, visto il titolo. No, Angeli e Demoni, l'ho trovato. Una guida turistica per Roma in versione comica. Ok. Fin così, nel senso, se uno vuole andare a vedere Roma va bene, dai, no? E farcisi due risate, va bene. Esatto, non so se tu sei d'accordo. Non l'ho visto. Ok. Poi consiglio, hai visto Bellocchio? Ho visto Bellocchio, ma per esempio la settimana scorsa ne abbiamo parlato perché usciva e a Piercarlo è piaciuto, per esempio. Io credo per ora Piercarlo è visionario. Giovane visionario. Vi conoscete. Vabbè, comunque io credo di invece di essere fuori dal coro, perché a me il film di Bellocchio non è piaciuto, ma ne riparliamo perché voglio volentieri. Riparleremo di questo, riparleremo di Lars von Trier, che tu non hai visto, che dovrai vedere assolutamente perché va comunque visto. Ok, va visto assolutamente. Va bene, allora mi ci impegno. No, va visto perché comunque fa parte della cinematografia, insomma, di un autore che è sempre, no? Okay. Ha qualcosa da dire, da stupire, e ha diviso parecchio sulla Croisette, cioè nella maggior parte dei casi non è Federico è stato pesantissimo sul giudizio. Quale Federico? Pontigia è stato pesantissimo su Lars von Trier? Eh sì. No, Pontigia è piaciuto. È uno dei pochi a cui è piaciuto. Sì. Ho capito veramente male. È piaciuto abbastanza, devo dire. Sì. Allora dobbiamo riparlare. Anche a Pacinella è piaciuto. Sì, loro due sono stati quelli tra cui, devo dire, c'è stata una positività. Poi, insomma, con tutte le riserve, io invece lo trovo un film altamente misogino e offensivo delle donne. Eh sì, è quello che era uscito fuori dalla conversazione, soprattutto con Federico. Devo dire, io mi sono molto arrabbiata, però riconosco la bravura, insomma, sempre delle attrici che passano sotto l'Ars, perché vincono tutte, quindi il motivo ci sarà, no? Ecco. Senti, va bene, allora riaffrontiamo la settimana prossima, dai. Va bene, un abbraccio forte. Un abbraccio, ciao Anna. Ciao. Oh, e noi siamo in chiusura. L'appuntamento è per giovedì prossimo, dalle 14 alle 15 con Visionari, per parlare di cinema. La scaletta e le informazioni sul sito ondarossa.info. Buon proseguimento.